che sto ibernandomi. Pronti? Aspetta, vogliamo. Allora, la prima canzone. Allora, aspetta, cos'è? Riguarda il primo ed unico olocausto che ci interessa, la foiba di San Giuliano. Siamo qui, siamo qui a lottare e non per dimenticare i volti di donne massacrate, il filo spinato e la mitragliatrice. Hanno spento un fiore, ma subito un altro è sbocciato. Gioventù europea, il rosso brucerà. La gioventù europea, il rosso brucerà. La gioventù europea, il rosso brucerà. La gioventù europea.